Letture di Radio 24. Si vota oggi al Senato il DDL Gelmini per la riforma dell'università. Tra i punti nodali della riforma c'è sicuramente il tentativo di mettere freno alle parentopoli universitarie. Padri che assumono figli, nuore, mogli o nipoti, pur attraverso concorsi regolarmente banditi. Oggi alle 9 il ministro Maria Stella Gelmini sarà ospite di Oscar Giannino, a 9 in punto. Ma per le letture di Radio 24 vi proponiamo l'ultimo caso di assunzioni in ruolo di parenti docenti. Per qualcuno potrebbe essere l'ultimo colpo di coda di parentopoli. Per altri, la continuazione di una saga inarrestabile che si tramanda di padre in figlio, passando per i nipoti. Università Roma 2, Ateneo di Tor Vergata, quello della Spianata, che ospitò la giornata mondiale della gioventù nel Giubileo 2000. La grande croce è sempre lì. Il rettore, no, è cambiato. Da quasi 2 anni c'è Renato Lauro, 71 anni, preside della Facoltà di Medicina. La stessa che ha chiamato come professore associato alla cattedra di malattie dell'apparato respiratorio la dottoressa Paola Rogliani. Chi è? È la nuora del rettore. Il posto che arriva in zona Cesarini delimita un'epoca. A ridosso del Natale, sotto l'albero, riunisce suocera, figlia e nuora. In pratica, mezza famiglia. Nella stessa facoltà e nello stesso dipartimento, infatti, c'è anche il marito della signora, nonché figlio del rettore, Davide Lauro, 41 anni, professore ordinario di endocrinologia, cattedra detenuta prima di lui dal padre. In fatto di parentopoli non esiste una geografia. I legami travalicano qualsiasi confine. Le nostre regioni, così diverse tra loro, nel malcostume etico, si somigliano più o meno tutte. Il primato del baronato, secondo gli ultimi calcoli, spetterebbe alla Puglia, con 8 familiari in un'unica facoltà. Tor Vergata si attesterebbe a metà classifica. Un balzo lo fece quando il nome di Roma II fu associato alla dinastia di Giovanni Dolci, noto odontoiatra con 2 figli, Alessandro e Federico, incapsulati nell'Ateneo romano. Renato Lauro, preside della Facoltà di Medicina dal 1996 al 2008, oltre ad essere rettore, è anche direttore del Dipartimento Clinico di Medicina, quello nel quale lavorano i suoi congiunti, del Policlinico Tor Vergata. La nuora, chiamata in cattedra in extremis. Come lo spiega? Lei scherza. Sono concorsi regolarmente banditi nel 2008, quando io non ero ancora rettore. Inoltre faccio notare che la legge Gelmini non abolisce i professori, stabilisce solo che i ricercatori sono una qualifica ad esaurimento. Per gli stessi bandi, continua il rettore, sono stati chiamati già 20 di vincitori di concorso. Ma vincere non vuol dire prendere servizio, visto che ci sono, come è noto, problemi di budget. In altri punti, la legge firmata da Maria Stella Gelmini potrebbe prestarsi a varie interpretazioni. Su questo punto, però, va oltre ogni ragionevole dubbio. È chiara. Prevede che nelle assunzioni per professore ordinario e associato siano esclusi i consanguinei dei professori appartenenti al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata. Di docenti, ma anche di rettori, direttori generali e consiglieri di amministrazione. Introduce l'abilitazione nazionale come condizione per l'accesso all'associazione e all'ordinariato, con l'istituzione di un'apposita commissione nazionale formata sulla base di specifici parametri di qualità. E fissa anche un limite temporale per i rettori. Potranno rimanere in carica un solo mandato, per un massimo di 6 anni. Nel caso di Tor Vergata, se approvata la legge, Renato Lauro potrebbe avere una proroga di 2 anni dell'incarico rettoriale e restare in carica dunque fino alla quasi venerabile età di 74 anni. Di lui si parlò come lo zio cui faceva riferimento nelle intercettazioni l'ex direttore dei lavori pubblici Angelo Balducci. Finito in pasto ai taccuini in quei giorni caldi, Lauro rispose: «E allora? Sì, sono io, lo zio di cui si parla nelle intercettazioni. Ma io sono un medico, non sono provenzano». Qualche giorno fa, il 16 dicembre, durante un incontro con il corpo accademico dell'Ateneo Romano, il rettore era stato duramente contestato e già in passato era finito nell'elenco dei parentopolati per la chiamata del figlio Davide, vincitore circa 4 anni fa, di un concorso di professore ordinario, non di medicina interna, ma di tecnologie biomediche, poi passato in endocrinologia. Lauro commenta: «Nel mondo accademico, non lo nego, ci sono tante cose che non vanno, e forse, purtroppo, continueranno ancora a lungo a non andare per il verso giusto. Mio figlio Davide se n'era andato però negli Stati Uniti a studiare. Lì lavorava e stava benissimo. Forse avrei dovuto dirgli di non tornare. Eppure basterebbe guardare il suo curriculum per mettere tutti a tacere. Stesso dicasi per gli altri professori associati che hanno vinto i concorsi del 2008. Controllate, sono tutti figli di nessuno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo A poche ore dalla riforma, il rettore assume la nuora, a firma di Claudio Marincola, pubblicato dal Messaggero del 21 dicembre. DNB, leader nella certificazione. Letture di Radio 24. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva deciderà in poche ore sul caso Cesare Battisti, l'ex terrorista che la giustizia italiana ha condannato all'ergastolo per aver commesso 4 omicidi durante gli anni di piombo. Non ha mai scontato un giorno di carcere e neppure ha presenziato al processo, perché nel frattempo si era rifugiato in Francia diventando scrittore di romanzi noir. Dopo un'ulteriore fuga si trova ora detenuto in carcere in Brasile. L'Italia ne ha richiesto l'estradizione, ma il presidente brasiliano starebbe per decidere in favore di un suo rilascio e del riconoscimento di rifugiato politico. Si avvia alla conclusione il lungo braccio di ferro tra Italia e Brasile sul caso Battisti. Nei prossimi giorni il presidente Luiz Inácio Lula da Silva dovrebbe rendere pubblica la decisione finale sul destino dell'ex terrorista dei PAC in carcere a Brasilia, condannato per 4 omicidi negli anni 70, per i quali la nostra giustizia ha chiesto l'estradizione. Si contano le ore, appunto, perché il 31 dicembre scadrà il mandato di Lula, il quale ha affermato in più occasioni di non voler lasciare la patata bollente in mano a Dilma Rousseff, la presidente eletta che si insedierà il giorno di Capodanno. Tutto lascia pensare che la scelta di Lula non andrà nella direzione desiderata dall'Italia. Cesare Battisti dovrebbe essere graziato e rimesso in libertà in Brasile, dove potrà godere dello status di rifugiato politico che il governo Lula gli concesse nel gennaio 2009. Se la decisione venisse ufficializzata, Battisti potrebbe passare il Natale in libertà, con amici e familiari in arrivo dalla Francia. Ho già un'opinione formata su questo argomento, ma non posso anticipare nulla. Devo rispettare la legge, ha ammesso Lula una decina di giorni fa durante una conferenza stampa con i giornalisti stranieri a Rio. Si riferiva all'attesa di un parere sulla questione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato. Questo documento è già da qualche giorno nelle mani del presidente e presumibilmente contiene quel che Lula voleva sentirsi dire. Un pacchetto di motivazioni giuridiche per le quali il governo brasiliano può dire no all'Italia e contraddire persino la propria istanza giudiziaria più alta, il Supremo Tribunale, che pure si espresse a favore dell'estradizione di Battisti. Fonti vicine al governo indicano che dalle motivazioni per lasciare libero Battisti sarebbero sparite le critiche che avevano fatto infuriare l'Italia al momento della concessione dell'asilo a Battisti, come quel fondato sospetto di persecuzione politica rivolto al nostro sistema giudiziario o la ricostruzione degli anni di piombo come semplice lotta politica tra due schieramenti. Non si entrerebbe nemmeno nel merito della colpevolezza o innocenza dell'imputato. Dovrebbero invece trovare posto ragioni umanitarie, legate alla salute di Battisti, o i 3 anni da lui già scontati nelle carceri brasiliane. Il governo Lula dovrebbe ribadire la tradizione brasiliana di non concedere estradizioni per episodi legati alla politica, una giurisprudenza che non distingue tra le parti. A Brasilia, qualcuno afferma che Lula ha già anticipato la decisione a Berlusconi. I due si incontrarono a San Paolo lo scorso giugno e che il premier italiano avrebbe chiesto al collega brasiliano di limitarsi a motivazioni umanitarie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rocco Cotroneo La scelta di Lula, pubblicato dal Corriere della Sera del 20 dicembre. Peter Sloterdijk è uno dei guru della filosofia tedesca e a 63 anni lancia una proposta strampalata quanto stuzzicante. L'uomo non è cattivo, ma buono, e per questo è sbagliato estorcergli il denaro con le tasse. Ne verserebbe di più se potesse donare liberamente secondo il proprio buon cuore. Un mondo non più basato sui presupposti dell'avidità e della paura, ma dell'amore e dell'empatia tra gli esseri umani. La notte scorsa ho sognato il mondo senza fisco immaginato da Peter Sloterdijk. Sulle prime era un posto meraviglioso. Il mio commercialista mi chiamava per parlare delle sue rose. Avvocati facevano e disfacevano alleanze tra le imprese con sempre maggiori vantaggi, mentre davanti alle banche code festose di cittadini aspettavano di consegnare le deleghe modello F24. Intravedevo sui fogli donazioni a 6 o 7 zeri e ognuno lo dava il ministro dell'economia solidale, che aveva concesso una proroga per le oblazioni. Poi il cielo si è incupito. Dapprima è spuntata una risoluzione dell'agenzia delle offerte che voleva solo precisare il codice tributo corretto per la generosità e con molto garbo ricordava di indicare la destinazione della donazione. Di lì a poco, una circolare del Ministero della Giustizia ultraterrena rammentava i requisiti per diventare destinatari del fiume di denari che stavano affluendo alle casse dello Stato. Subito, parlamentari sorridenti votavano una proposta bipartisan per delegare la presidenza del Consiglio a varare con propri decreti l'elenco dei benefattori e quello dei destinatari. La situazione si è fatta subito più confusa. La burocrazia, con truppe cartacee e digitali, si è impadronita del flusso di generosità, che continuava nonostante tutto, e con la scusa di organizzarlo, ha preteso leggi per regolare le percentuali di donazione, da declinare secondo reddito e patrimonio. Circolari per chiarire quando un'offerta potesse diventare elusiva, verifiche a campione tra i donanti. Al risveglio, ho trovato l'ultima circolare delle entrate dedicata al 5 per 1000. 12 pagine, una decina di rimandi a leggi e decreti, una manciata di circolari e sentenze da tenere presenti. E la quota di generosità da disciplinare era, appunto, del solo 5 per 1000. Quante pagine servirebbero se volessimo arrivare alla generosità integrale? Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'imposta solidale e l'incubo dell'esperto, a firma di Mauro Meazza e pubblicato dall'inserto Domenica del Sole 24 Ore del 19 dicembre. Se Sandro Pertini è il presidente della Repubblica per antonomasia, il CT è senz'altro Enzo Bearzot. Nell'estate del 1982 la Spagna divenne terra di conquista per tutti gli italiani, tifosi o meno di calcio. Ma 83 anni di vita non sono riassunti da un unico episodio, per quanto grandioso e felice. Per fortuna in questi momenti c'è qualcuno che si occupa di noi. E se non può più distribuire salute, ti dà almeno conforto e dignità. Era una mattina d'estate, al solito caffè in zona Vigentina. Il Vecchio buttò là quella frase tra uno sbuffo azzurrognolo e un colpo di tosse e non fece una piega accorgendosi che la stavo appuntando sul taccuino di pronto intervento. Anzi, dopo un silenzio più lungo del solito, sogghignando mi disse che facevo bene a portarmi avanti col lavoro e aggiunse che quel giorno non poteva essere lontano. Il giorno è arrivato. In quella frase c'è tutta la cristiana rassegnazione con cui Enzo Bearzot ha accettato il suo destino, sforzandosi sino all'ultimo di viverlo da cittadino del mondo e solo negli ultimi giorni trascurando i quotidiani che Donna Luisa gli portava di buon'ora, ma non sforzandosi per nulla di mascherare il malumore, il disgusto per come è ridotto il paese, il vivere civile, il calcio, l'informazione sportiva e non. La voce al telefono era sempre più fioca, più lontana negli ultimi tempi, ma al ruggito non sapeva rinunciare, nemmeno dopo che l'asticella della bilancia era scesa sotto la soglia dei 50 chili. Povero Vecchio, saranno stati i toni, o la suggestione, o il velo dell'amicizia, ma sembrava davvero di riascoltare le intemerate di Pertini o le sferzate di Montanelli. Non a caso, due dei suoi giganti di riferimento. Anche Enzo Bearzot è stato a suo modo un padre della patria. Era partito dal Friuli alla fine degli anni 40 alla scoperta di Milano, dopo gli anni giovanili nella Pro Gorizia. Trovandoci, il giorno dell'esordio a San Siro, una maglia nerazzurra indossata alla rovescia per l'emozione, con il numero 5 sul petto anziché sulla schiena. Ci restò per 3 anni. Il giorno che si imbatté in Luisa, in corso Italia, sul tram numero 3, precedette non di molto quello della cessione al Catania. Poco male. Prima il matrimonio nella chiesa di San Calimero, poi una lunga luna di miele sul mare di Aci Trezza, e 3 stagioni culminate nella prima storica promozione del Catania in Serie A. Il ritorno al nord coincise con il primo vero amore calcistico, il Torino, capissi dal primo giorno che quello sarebbe stato il suo approdo definitivo. Non solo ci giocò per 10 anni, gli ultimi da capitano di una serie interminabile di battaglie, ma lì imparò il mestiere di allenatore, per espressa volontà di un maestro come Nereo Rocco. Aveva 40 anni quando lo adocchiò Artemio Franchi, l'unico vero dirigente di respiro e statura internazionale della storia azzurra, e iniziò così l'avventura federale, partendo dalle nazionali giovanili e dal ruolo di vice Valcareggi prima e Bernardini poi. Dopo il Granata, proprio l'azzurro divenne il suo secondo e definitivo colore. L'Italia di Berzot fece un figurone al Mondiale argentino del 78, per poi trionfare a quello spagnolo dell'82, con una squadra in cui c'era il giusto mix di campioni e di gregari, ma il cui valore aggiunto fu lo spirito di gruppo che Berzot coltivò dal primo all'ultimo giorno, a costo di scontri feroci, a volte anche tribali, con la stampa cosiddetta specializzata, quella che pretendeva di imporgli Bordon al posto di Zoff, Beccalossi a quello di Conti o di Antonioni, Turone anziché Scirea, Pruzzo e non Paolo Rossi. La mia nazionale, raccontò in occasione dei 70 anni festeggiati nel 97 in mezzo ai suoi campioni, è nata come un'orchestra jazz, una delle grandi passioni della mia vita. La batteria che dà i tempi di fondo, un po' come il regista che detta le cadenze di gioco. Il sax può essere il fantasista. Il contrabbasso è il libero, capace di difendere ma anche di offendere. La tromba è il goleador. Tu che dirigi, devi fare in maniera che i singoli interpreti si muovano entro il filo conduttore della musica e si adattino di volta in volta al pezzo da suonare. Ma sempre in funzione dell'assolo del solista, perché è quello che ti mette i brividi. Ed è grazie a quello che si vincono le partite. Il suo decennio azzurro si concluse agli ottavi di Messico 86 contro la Francia di Platini. Non cercò scuse. Si limitò a riconoscere che gli avversari erano stati più bravi, per poi ammettere nel tempo che la gratitudine per i grandi di Spagna lo aveva condizionato nel rinnovamento. Da allora si è dedicato alla famiglia, rifiutando fior di proposte di club di vertice in Italia e in Inghilterra, perché oltre il ruolo di CT per lui non si poteva andare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gigi Garanzini Il calcio ha perso il suo vecio, pubblicato dal Sole 24 Ore del 22 dicembre.